baciato per pilotare quella roba là. Giù Spitzer, fermo, cosa fate? Gianni, prova giù. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ho baciato il bar. E c'hai pochi picchi positivi, ma piccolissimi proprio. Vedete che arriva già alto, qui arriva 9.40 arriva lui. Non lo so cos'è, dipende a me. Sì, anch'io, allora quando schiaccio lo splitter mi va Santiago quasi 2. Quando parlo va a picchi positivi a fotoscala. Vabbè, si vedono tutti. Prova a parlare già. E anche il microfono che è potente, capito? Il microfono c'ha la potenza. Adesso ti ho abbassato di potenza, sì, i picchi positivi ce li hai, Ma dove lì? No, a Gianni l'ho portato a Santiago 5 per vedere i picchi di modulazione, perché quando si è a fondo scala i picchi sono minimi. I miei sono impazziti. Prova già, prova a fischiare. Ma adesso abbassa per la potenza al minimo, le due quarti. Ora... Ma io li vedo qua, che ci sono. Sì, ci sono, però sono sempre pochi. Non si neanche io li vedo quelli di Gianni, l'ho portato a Santiago 5 e mi dà fino a Santiago 9, i picchi. Gianni? Sì. No, da me sono più bassi invece. Salgo di Santiago da 3 a quasi 2, dai, da 3 a 5, oppure da 5 a 7 sale. Beh, il mio, ho già, va bene, così, fattivo è. Abbassa le FG, guarda, 1, 2, 3, prova di modulazione, 4, 5, 7, 9, 10, K, vai. No, aspetta, vai adesso, l'ho abbassato. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5, 7, 4, 3, 2, 1, 0. Dimmi un po' se sono impazziti. No, vabbè, praticamente ce li ha i picchi, però non sono proprio di quelli tipo banda laterale, dai. No, invece da me è proprio banda laterale. No, da me no, da me risulta che ce li ha, però non sono fortissimi. Anche con le FG in chiuse. Mi aspetta, te lo registro, aspettami. Guarda, a me l'ho detto anche altra persona, non sono franco, che andavo dai picchi positivi fino a quasi fotoscala, 9.20, 9.25, 9.30 a volte, dipende, non lo so. Anche la potenza del microfono e la modulazione, no? Quelli sono i picchi di modulazione. Saranno anche le mie corde vocali, cosa ne so? E può darsi pure che sia quello. Comunque, mi piace questo microfono già. Anche a me. Ah. Tu un giorno portalo qua che lo provo a vedere come esco io. No, tu c'hai l'ugola troppo leggera. No, non lo usare. Per me c'entra molto anche la timbrica di modulazione della voce della persona. La mia voce è chiarissima, chiara, limpida. Anche la mia. La tua è così, Vai, fine nera. Gianni? Tu ce l'hai il numero suo? Di Antonino, sì. Daglielo. Così glielo mandi. Daglielo a Franco, non c'è problema. No, gli ho mandato il video a lui, poi lui lo gira a te se vuole. Ti può dare anche il mio numero, non c'è problema. Non io gli ho segreti. Anzi, di solito lo danno alle donne, comunque. Infatti. Ce l'hai il telefono a porta di mano? Io sì. No, Gianni. Sì, ce l'ho in mano. Meno male ce l'hai in mano. Scarica il video. Hai fatto il video dello Smith quando parlo? Sì, c'è sia il suo che il tuo. Mandamelo già. E poi fra, il mio numero te lo posso dare anche per frequenza. Io non ho problemi di nessuno. Ma... A me già? Io ho mandato per... Eccolo qua. Eccolo Smith. Sei impazzito proprio fra, E tra di tu. Ma lo vedi come cambia da un apparecchio all'altro? Visto come cambia però da un apparecchio all'altro, come cambia dei segnali, blu? Aspetta, proprio impazzito. a volte mi ricordo, io vedevo, non so, un segnale con picchi negativi, e invece un altro dice, no, io li vedo positivi. Ma come può essere? Boh. E quello mi giunge strano anche a me, ma a me mi hanno dato tutti i punti, cioè i punti positivi di chi tranquillamente, ma non sei solo tu che mi hai detto che ti fa ripazzito. Ti dico che scendi, se tu non parli, scendi a Santiago 2-3, mi è importante, e poi quando parli impazzisce. Quindi così, basso, poi alza di colpo. Scende quasi a 2, sotto il 3. Gianni, io gli do le spinacci. Vabbè, che tu hai giocato, dai. L'avevo anche un po' regolato lo Smith, perché prima tutti arrivavano massimo 9-9-5. Avevo anche vergogna a dare controlli. No, questo voleva perfetti, proprio quando passo da Refeghi mi ricentro le persone a quanto arriva a Santiago, da lì mi so orientare più o meno, indovino chi è, se uno parla, chi è che non è, pure chi è trasportante. Ma no, non ho mai bruciato queste cose, ma quando c'è portante piglio e spengo. Ah, io altrettanto più o meno dico, più o meno, a volte sono curioso, a volte dico, ah, sabbia luce, spiego tutto, se devo parlare con Gianni lo chiamo e così dico, portata non ce n'è più. Per quello mi scendo giù, prendo la macchina e ne porto un giretto, se riesco a beccarlo magari. Ecco, poi chiami anche a me, non c'è problema. Vai, guardate il filmato come arrivi a casa. Io? Ernia. Mandalo anche a me già. Cancellini a me mi devi fare. Scusami, sta caricando. Guarda, io male non ne dico, ma ha scritto pure. Ecco qua. Non è molto come quello di Franco. Toto! Non li vedo molto bene gli anni, però. Io Galaxy to Galaxy, Franco già è samurai, è già diverso. Non lo vedo bene io, signore. Sicuramente a te arriva molto forte. A me è fotoscala. Ma io dove abito io sono proprio a un tiro schioppo da Gianni e sono pulito pulito. Anche per quello forse i picchi li vede più forti lui, eh. Cioè più forti, nel senso li vede meno perché gli arrivi più forte. Cappa. E infatti, perché arriva già a fondo scala, capi che deve avere, già blocca dei chili, si blocca più avanti del DB. Però se lui mette la portante fissa, tu riesci a portargli il suo segnale quando non parla e farlo, a portarlo per esempio a 2 o a 3? Tu non ci ho mai tentato, prova tu. Cappa, non devo parlare però, eh. A 4,5 lo porto. Ma c'era una portante? No, la mia è. No, perché il segnale da 3 è passato a 9,20. E ho aumentato la potenza io, poi l'ho messo normale. Aspetta, prova già. Guarda a vedere quanto sono i numeri. Guarda, wow. Così, mic gain, ref gain, chiuso. No, a lui, porta. Torino, portalo a segnale basso di 4 per esempio e poi vedi i picchi. Prova tu. Dai. Ora 2-3, prova di modulazione, guarda poi i picchi di Pavia, ia. Sì, così ci riesco a quelli di Fra. Vedi, bisogna attenuarlo un po', sennò come io ricevo a te, mio già. Siccome io lo abbasso, lo porto a 4,5 di segnale, c'ha picchi positivi tipo banda laterale. Invece a me mi arriva per esempio 3 senza attenuarlo, no? Mi arriva a 3. Quando parla va a 9,20, dove è abbondante puro. Comunque, questa antenna, l'Aveno, che costa 60 euro, va troppo bene. 60 è troppo. Oh, l'ho fatto arrivare da Amazon. E Amazon la paghi qualcosina in più. Ma la trovi una cinquantina, là. Beh, siamo lì, siamo, dai. Beh, mai 48, più le spese. Quell'antenna lì va benissimo. Te l'ho detto io di prenderla, infatti ho fatto un bel. E K, ma è bello per recuperare su un'ascia per riserva. Ciao. Cioè, che con l'antenna non resiste molto in watt, se devi attaccare watt non va bene, perché ha il cavo interno che fino, almeno che glielo cambi. C'è gente che gliel'ha cambiato, l'ha modificata e la usa anche con meno watt. Vabbè, ma qua 100 watt la puoi mettere. Sia programmata per 300, una cosa del genere, però so, ho sentito dire che in un foro hanno scritto che questo qui gli ha messo 100 watt e si è sciolta. Io comunque, più là, se tutto va bene, quella mi dà la mano per uno, gliela piaccia, buonanotte. Ma non è ancora piazzata la mano? No. Mi ha detto che riscende con la mano, ma che si fa un raggio. L'ho tolta, lo rimetto, devo rimetterla. Ah. Tutta bella pulita, lucidata. Ho già, l'ho anche profumata. Per lucidarla basta mettere CRC sopra un pezzo di lana d'acciaio e passarlo. Lo riesce lucida, lucida, poi lo faccio uno straccio e tutto lo levo. Però che quella pompa di più, quando metto la toppa a fianco le metto, però devo mettere 8 metri. Oh già. Allora eccola qua, davvero, c'è anche la mezz'onda, io parlo da 5 ottavi, potenza massima 1000 watt, 1 kW regge. Quella che ho io, 5 ottavi d'onda, mi è arrivata 5 ottavi d'onda, 1000 watt. Sì, sì, 26-30 MHz, 4,5 dB di guadagno, 50 ohm, altezza 5,80 m, peso 3,5 kg, 1,1 massimo 1,3 stazionari. Fra, tutte balle so, tutte balle. C'ha la carica che è fino a fila. No, forse non sta uscendo. Grazie a bene già. Magari li regge pure, però a quanto ho letto sul forum si sciusa. Ma io dico, non dico 1000, ma almeno la metà di 500 li reggerà, a voglia con 500 watt. Beh, ma tanto Torino non le deve usare, va bene per lui. Ma se li vuol fare la modifica, li cambia il capo interno, li lo mette più grosso e va alla grande. Non devo fare modifiche niente, già mi va bene così, questa la rimane così, muore così. Se mai metto la mano l'uno a fianco. E poi si accoppiano. E chissà cosa ne esce fuori. Parallelo Turini, per andare. Da vedere che poi c'è una bomba e poi partorisce, oi oi oi. Le antennine. Te le mangi già, tutte le antennine piccoline mi partorisce. Incrociate. La manto va Venom. Va Venom con i radiali della manto. Io c'ho radiali piccolini, piccolini per i cicciotti. Senza poi c'è la curraccia, non le fai in onda. Tu c'hai quella con i radiali, c'hai, piccolini? Cappa, belli grossi. Perché c'è anche quella senza radiali, tutti e due, sia la mezz'onda che la 5 ottavi. E io c'ho quella con i radiali che sono belli grossi, corti, un po' curvati. Sì, sì, già li conosco. La curva come fa? In piano? Vero? Sì, in orizzontale. In genere le piazzano così. Chiedi a Franco, come gli attacca 50 volte la sarebbe stazionare a 1000? A me no. Sì. Come lì da non dire che 50 watt al Kimwood la sto usando la vera, no col Kimwood ci sono le stazionarie a gogo. Io avevo con questo baracchino pure 100 watt, 200, pure le stazionarie sempre 1 e 1 e che lì alti un po' salivano. E vabbè, quello è normale che salgano un po', a meno che le regoli in modo che non salgano più di tanto. Accordatore? Ma io non ce l'ho l'accordatore. Non ce l'hai? No. No, io siamo sempre inserito, allora, però ce l'ho tra l'apparecchio e l'alfa lima, là. L'accordatore ce l'ho incorporato nell'altro apparato, automatico. No, nell'apparato, vabbè, con il rosmetro. No, no, io ce l'ho l'altro apparato che c'è l'accordatore incorporato, automatico. È roba seria, là. K. Proprio K? Proprio K. K, da qui non si scappa. E che ora è? Ma com'è? Il lievitato al prezzo, Tony? Non ho capito. Ma ho detto, si è lievitato il prezzo di quell'apparecchio. Ha lievitato, sì. Ma sei contento che non si sente zero. Ma lo sai perché? Ti spiego. Ho messo anche quello che bitume alta a me, l'avevo messo 70 euro, no? E lui mi ha fatto la proposta, l'offerta, 59 euro. Allora ho detto, non sono una fame. L'ho messo 100 euro, poi ho passato 80. Tanto sempre 70, mi dà sì. Ho preso la spedizione. Ma usi un altro nome, usi? No, quello è il nome e cognome mio che c'ho lì. Anche ho letto uno che lo stava vendendo, però una cifra molto alta, mi ricordo, un K, Aspetta, il nominativo te lo ricordi? Può essere tipo Chicco Chicco, una cosa del genere. So sempre io. Quello lì, ma era alto, era un 140 era? No, è un 450. Un 450, sulle quante era? 700, 500, non mi ricordo adesso. Non mi ricordo, mi sono messo 700 o 600, non mi ricordo. Era Sasse, non capivo chi fosse, non sapevo che fossi tu. Se ne vale tutti, è nuovo nuovo. E c'è anche un apparecchio CB. K. Ok, non sapevo che fossi tu, dai. Mi sembra che mi dice Chicco Chicco, qualche volta anche non mi cogliamo il mio. Chicco, dai, che diminutivo è? No, veramente Chicco si chiamava il cane mio. Ma il gatto, perdono, che pure mi è morto dopo 15 anni. E dove l'ho troppo appena l'ho detto. E quindi mi chiamavo Tony Chicco. Chicco è il diminutivo di Francesco. Ma no, quello è forse Checco Francesco. Chicco è un altro nome. Ma Checco fa è brutto se vuole una checca. Chicco, io c'ho anche un cugino lì a Ossi. Come si chiama di nome? Boh, non mi viene. Comunque noi non avevamo che pensato, questo Chicco era Francesco Urtis, sì, la ragione Gianni. Sì, poi magari, no, non lo sapevo, Chicco no, ho sentito sempre su altri nomi. No, ma io ci ho messo Toni Chicco, Antoni, diminutivo Toni. Mimì, arrivati sono forti. E aumentando stanno. Mi sento anche io, ragazzi, ci divertiamo stasera, dai. Aiuto, dai, dai, facciamo le gare. Ieri c'era Sicilia, Calabria, Udine, tutta l'Italia ti sentiva ieri. Dove era? No, in banda ero. Ah, in banda. Ma io in banda non ci vado mai, non mi piace. Mi piace più l'FM e la M, ma in banda blu più. Queste luci dopo cicciate non mi piace. Ma no, arrivavano bene, li ho centrati bene. C'era Catania, Verona. Tu ma segnaloni, dove venti? La propagazione aiuta molto, anche se ci con pochi vatti la propagazione ti aiuta. Poi ci vuole dalla Spagna, lo sento quasi tutti i giorni, parla benissimo l'italiano, parla da Malaga. Adesso non mi viene il nome, l'ho scritto da che parte, ma arriva bene, e poi sente tutti, sente tutta l'Italia, sente. Sì, anche io ci ho modulato con uno che modula da Malaga. E ti ricordi il nome? Com'era? Tipo, forca miseria, non Fanio, non mi viene qua. No, non me lo ricordo sinceramente. Ti ho fatto un medico nella vita. Ma se di lo sento il cazzo. Già, se non mangio la glicemia, però altro più sorbetto al caffè, buono, buono. Io ce l'ho tutto il giorno che va benissimo, sono partito da stamattina a 85, l'ho buttata più alta a 95. Buono, là. Ottima. Ma sto facendo sacrifici, perché ho mangiato, sai che cosa, a pranzo, non mi vergogno a dirlo, siccome mi hanno tolto due denti, non potevo mangiare roba calda, roba... E allora mi sono fatto una crema di porcini e ho mangiato quella, l'ho fatta raffreddare e ho mangiato quella lì, così non devo masticare. Ah, l'ho generalizzato i porcini per fare. È buono, che buono. È bello profumato. Mi fanno bene, vedi, i semi di lino, che li trovi anche nei supermercati. Quelli te li fai se c'hai un ottimo mini pin, devi frullare in polvere praticamente, devi sminuzzare in polvere, tipo caffè devi diventare. E poi te li puoi mettere in una bevanda, non so, nel latte, e abbassano la glicemia. Ah, sì, sì. Io avrei provato. Mi ha detto che sono semi di lino. Sì, li compri in bustine, sacchetti da 300 grammi, non so, non vuoi sbagliare. Li trovi dappertutto nei supermercati, sono delle bustine. Però devi avere un frullatore, io lo faccio con col Bimby, perché con quegli altri no, non ce la fanno a farlo in polvere. Invece il Bimby Malasorte lo fa in polvere. Ma io ne ho un frullatore, il robot, raggio 2 o 3. Ma ripeto, solo col Bimby io riesco a farlo tipo caffè, se no mi rimangono pezzettini, perché lo devi sminuzzare, perché se lo mangi il seme intero, adesso non so, molti addirittura hanno problemi di diverticoli, gli farebbe anche male, non so se lo sapevi, però se li fai in polvere non c'è nessun problema. Ma io Bimby non ne ho, ce li avevo i Bimby ma sono cresciuto. Come dice mia moglie, aspetta un Bimby. Prova, se i tuoi frullatori hanno le lame e riescono a farlo in polvere. Una volta puoi provare, ne prendi un pacchetto e lo provi. E se non li fa in polvere proprio, li passo a settaccio e li passo con quelle... Comunque se taccino che ho, che lo uso per l'olio, perché a volte l'olio me la usava due volte, ma io ce l'ho butto via. Quando c'è il deposito, dai. No, non buttarli, è un peccato, perché insomma è il fastidio che mai ti ferma in mezzo ai denti, ma poi dateli lavi. No, non buttare niente. Comunque, ho capito il microfono, perché volevo essere un saggiante a mano. Quindi che dici, ti ero tolto davanti già? No, è venuto l'ascesso di lato, due denti del lato. E mi è venuto questo ascesso, ma me li devo rimettere, me li faccio rimettere. No, perché sono davanti, quindi chiamavo il trombolino, dai. No, ma davanti come fa a togliermi i toni? Davanti c'ho l'impianto io. E anche c'ho l'impianto dell'acqua. Sì, ma la dentiera. Certo, dentiera. Dentiera. Poi scappava, correva, tu la pensi, fai la lì. E adesso faccio rimarginare le ferite, faccio l'impianto. C'è una massa di glicemia che non c'è matta più. Sorbetto al caffè, buono. Antenna. Questa antenna, guarda, Diamond BB7V, antenna verticale, banda larga, da 1,8 a 30 MHz. Oh, il prezzo è 342 euro. Oh, tu, però ti copre tutto, da 1,8 fino a 30 MHz. È strano, c'è una bobina sotto, allucinante, sembra una bottiglia di Coca-Cola. Ma è un'antenna base? Sì, si chiama Diamond BB7V. La sta dando chi la sta vendendo? Questo che vende antenne, Am Radio Shop. Io da quando c'ho quella col sensore non c'ho più la glicemia alta, lo sai, perché ho paura di mangiare, perché se vuole fare il dottore, perché questo qui trasmette tutto al dottore, capito? Lui va al computer e vede tutta la tua situazione. Ma si parla del muso, la cosa che mi controlla là, se me la controllo io, boh, tanto me la metto io, no, voi, la giornata. Arturi, adesso ce l'ha 98. Facciamo. Insomma, adesso c'è anche fermo, non stai bruciando. Non è basso, Arturi, deve essere da 80 a 120. Gianni, 98, 100, è pazza, non dimmi di no. Allora, la macchinetta nuova che mi hanno dato a me dice già c'è alta, se c'è della spia rossa, quando arriva a 180, già c'è un taglio rosso la spia. Se invece è buono, 170, 160, e la spia è verde. Se è più bassa ancora, la spia è bianca. macchinetta nuova. No, c'è così che sei già al limite. Così. Per un diabetico 10.000 deve essere il massimo. Già, anche diminuita, è a 100. Prima era a 120, adesso è a 100. Ne sei uscito a coppia di radio, eh? Mi è scappato. Comunque, allora, a me me ne tocchiare il tono. Quando c'è 90, 100, ok. Se il massimo può arrivare a 150, 160, no. Questa macchinetta me la frega stata fatta bene già. Quando arriva a 180 mi si accenderò sulla via. 180 è alta, è normale che ti si accende la spina. Se 120 il massimo, tu lì, cazzo, lo stiamo dicendo. Noni, se c'ho 160, c'ho 50, la spina è verde, sono nel limite, capito? La mia a 150 già mi fa gli applausi. A me, mi dà anche il sud perché ho promigerato. Noi accontiamo. Beh, iniziamo a preparare qualcosa da per cenare, dai ragazzi. Vi saluto, un abbraccio a Gianni e a Kawasaki, alle prossime, dai. KK, ciao Fra, ci sentiamo, dai, buona serata. Tony, fatemi spiegare bene com'è la glicemia, che non hai capito bene. Ascolta, io non sono da questi puffazzi, me lo guardo anche su internet e mi dice la stessa cosa, quindi. E poi la mia glicemia io l'ho dato anche quando va a 110. L'indomani mattina ce l'ho più alta e tu pensi non mangio nulla, cai, per il suo insulina, tutto quanto, invece se è più bassa e se è un po' più alta. Sale e scende. Perché la notte sale. Ma allora io ti spiego, per un diabetico può anche andare bene 150, ma certi dicono mettici la firma a 150 perché ci sono diabetici che li sanno ancora di più. Però il massimale è 120, adesso l'hanno diminuito a 100, capito? La glicemia normale di una persona normale è così. Sì, ma a me la persona normale non normale, io quando ce l'ho così, ormai sono 8 anni che mi raggio così e quindi non so di a cambiare a spaventarti. Io quando ce l'ho così so già quando ce l'ho e la notte mi devo fare con la glicemia, poi c'è quella insulina e basta. Me l'ho aumentata da 20 a 22 unità, poi basta, finito. E non prendere altro da adesso. E poi prendo la metformina giustamente prima di colazione, prima di pranzo e prima di cena. La zucchina mette 5%, è buono. Ognuno ha ragione a modo suo, però se te lo fai spiegare bene te lo dicono come. Gianni, me l'ha detto il diabetologo, capitina. Io la sto dietro, lui mi ha mato di vicino, mi ha detto segna tutte le volte che ti segni la glicemia, che te la misuri, così. E infatti, dice che il vicino era già 5C perché lo perde, lo stesso poro si era pensato, non c'era la forza. Più mi ha detto non lui, quindi già ne ho voglia. E niente, ho segnato la data e cui me la misuro, prima di pranzo, prima di colazione, dopo colazione, 2 ore dopo sempre. E capito, è stato tutto quello che... Anzi, lui mi ha detto, se tu una mattinata ti misuri prima di colazione, devi misurare. Indomani non farlo prima di colazione, fai dopo la colazione. E via dicendo, come prima di pranzo e indomani ancora dopo pranzo. E via dicendo. Io invece me la misuro prima e dopo, senza problemi, senza bucarmi. Con questa macchinetta qua non ti devi bucare, quindi lo puoi fare quante volte vuoi, durante la serata, prima di mangiare, dopo mangiare, lo puoi fare quanto vuoi. Sì, ma c'è già il lago dentro, però già. Ia. Non è un lago, me l'ha spiegato, è tipo un filo che rimane all'interno della pelle, capito? È sempre un piccolo lago dentro della pelle per vedere cosa del sangue, è sempre diretto, eh. Ah, mi dà posto che fuori si fa con cuffami, oppure che si straccia le cose, no, lascia perdere. No, per quello tu no, per quello non mi dà fastidio, perché io mi giro la notte, mi giro da una parte all'altra, non si è staccato. Quello che non ho provato ancora è la doccia, mi ha detto che se lo metti al sole ti dà i valori sballati, quindi stare all'ombra, al mare, perché se non ti misurare dopo che ha preso il sole, perché ti dà i valori sballati. E nemmeno se vai in montagna c'è la neve, è la stessa cosa. I cambiamenti di temperatura fanno sballare i valori. Oh, Franco. Franco ha chiuso perché si è vinchiato. No, perché me ne ho fatto mai una fine, poco fa. No, lasciamo stare. E ce n'è andato Franco. Ma chi? Franco California, se dice Don Franco, Franco della stazione. Franco della stazione. Salutato Franco, cazzo. Comunque no, a me comunque sa fare così a braccio già mi sembra di essere un più unico, non so che cosa. E anche a me un po' mi dava fastidio, fastidio nel senso che si diciamo che si è segnato, come dire, quello di abitico, perché ce l'ha capito. A volte mi pongo il dito, a volte non esce qualcosa con il bar, ha già finito la riserva, non vede più. Ma che a me lo fa? Deve stare a vedere di te, io pagare. E vabbè, comunque dai, un attimino, una piccola puntolina, ma cosa senti dai. A me, ripeto, non ce l'ha che il marito mia nipote, che c'ha cosa attaccata bianca, a braccio, no, non mi piace, sono... non mi piace assolutamente. Mi fa senso. Eppure io non me ne accorgo nemmeno di averla, lo sai. Io glielo ho chiesto anche il diabetologo, ma questi che si mettono il conto, ah, sapete, non è per te, questo mi ha detto. Perché tu non ce l'hai molto alta, capito? A me, tu pensi anche le altre volte, quindi ho approfittato. Due piatti di pasta. Poi ho mangiato anche un pezzo di torta gelato, mi sei salita a 305. Subito l'insulina, a nanna, e domani ce l'avevo 130. Vabbè, ma se mangi si sa che sale. La pizza la fa salire, ma io la voglia di mangiare in pizza, non ne so come mangiare, riparo a sale, è la verità. Se no, vabbè, le pizze al taglio mi piacciono più della pizza grande. Anche a me piace la pizza al taglio, non fa parlare con la pizza grande. Sì, ma che ti devo evitare di mangiare, no, giù il prezzo, ma se abbi la luce di ammette, se mangio la pizza mangio altro, però già, solo la pizza tu. Ma almeno poi me devo mangiare la pizza al taglio. Oh, Tony, se avessi visto il tipo che è venuto l'altro giorno, non avresti più parlato così. Aveva tutte le gambe piene di cerotti, tutte viola, un signore della nostra, della mia età, più o meno, 56, ma 64, 65, là, con la moglie è venuto, camminava anche male, camminava piano piano, con queste gambe tutte viola, tutte piene di cerotti, di, tutte aperte. Avrà avuto da bere varie cose che fate. Oh, cosa per le varie cose? Le ulcere diabetiche sono, cazzo, non lo sai, che possono anche tagliare le gambe dall'ulcera diabetica. Io ho rischiato, mi colpiere. Sì, ma c'è questo. Noi c'è controllata, praticamente perché controllata, perché se io so che c'è un po' alta, cerco di non mangiare niente e me la faccio passare, capito? Più la pastiglia ci siamo. Però la nostra è controllata, vuol dire che lui non se la controllava mai, non gliene fregava niente. Alla fine poi è arrivato a questi limiti perché ha trascurato. Gli smalti, me l'ha detto il dottore, sono la cosa peggiore. Gli smalti da bassa ad alta, da alta a bassa, sono quelle che rovinano gli organi. Lo so, io ci stato come sempre, per me non è capito, quindi è andata così. E non solo, adesso mi sono venuto le cremuzze e il caffè. E dico questo, che non può più mangiarmi la mezz'ora, se alta mangio la mela e non so per il caffè. Io ieri ho mangiato crema di cose, di funghi porcini e lo yogurt, tutta roba liquida. Stamattina ce l'avevo a 98. Vabbè, io non mangio verdura soltanto e basta, ma ripeto, poi avevo una fame a Rinozzi, per esempio, ho preso solo la mela, però dico, vera forza, se ho prezzo mangio, non è che non devo mangiare, ma la divina glicemia bassa, cosa ho fatto? Uno due giorni la tengo bassa, poi faccio fame, mi mangio, pensate, adesso c'è la piglia luce. L'altra notte io per dire ho mangiato solo cavoli e insalata, no? infatti volentieri insalata, che a me piaceva molto, con molto accetto, mi piace, e ho mangiato un bel po', dico la verità, però mi sentivo alle 3:30 di mattina, non riuscivo a dormire, c'avevo fame, mi sono dovuto alzare e mangiare qualche cosa, come ho mangiato poi ho preso subito il sonno. Vabbè, mettiamo diciamo a mangiare la roba, io cosa faccio? Un altro pizzo, mangiare un veloce, poi cerco di mangiare quasi niente per la cena, le pizze sono fatte così, che rimane regolizzato. Comunque Gianni, dai, sono il numero 5, cavolo, è buono il tempo, mi guardo un po' come giornale, ormai tiro per le scuole, non c'è più un tempo. Ok, ce la scopriamo le prossime, state bene Gianni, sono la vittoria da sotto noi, alle prossime, ciao ciao ciao. Ciao ciao Tony, si sente la propagazione, sta arrivando. Sì, anzi fai qualche di ex. Ciao ciao. No, no, io me ne sto andando a portare il cane giù e devo mangiare. Ciao. Ciao. Attenzione, canale 10, canale 10, se ascoltate l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Avanti, c'è come Cipro. Avanti, Sardegna per Cipro. Non ti sento, Cipro. Ciao, ciao. Ciao.